Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona giornata cari radioascoltatori. Oggi parleremo di un qualcosa che negli ultimi tempi, diciamo, un po' balzato alla ribalta in vista dell'Expo. Io credo che prima se ne parlasse veramente molto, ma molto poco. Si tratta della biodiversità. Devo subito dire che è un termine che non è stato coniato da moltissimi anni, perché risale al 1988 per merito dell'entomologo Wilson Hale. Quindi diciamo che è un termine molto molto recente. E allora io chiedo, ho con me qui il professor Michele Corti, che è docente dei sistemi zootecnici e pastorali dell'Università degli Studi di Milano, di definirci, professore, come si fa? Come possiamo definire qualcuno che le chiede, ma cos'è questa biodiversità? Beh, innanzitutto noi ci occupiamo di quella parte di, come agronomi, zootecnici, di quella parte di biodiversità che è stata definita agrobiodiversità. È una definizione che risale al 1992, la Convenzione sull'ambiente di Rio de Janeiro, che ha riconosciuto che la biodiversità agricola, quindi l'insieme delle varietà coltivate e delle razze, delle popolazioni di animali, è parte integrante della complessiva biodiversità. Questa è stata una grande un'acquisizione di grande importanza, perché in precedenza c'era una tendenza a circoscrivere il concetto di biodiversità alla sola sfera delle specie selvatiche. Invece con Rio de Janeiro c'è stato questo grande progresso, quello che è stato il frutto del lavoro dell'uomo dal Neolitico in avanti, con questa grande esplosione di diversità genetica, di diversità culturale, è stato riconosciuto. Ecco, diciamo che in Italia però da pochi mesi esiste anche un provvedimento di legge che salvaguardia la biodiversità, quindi diciamo che sicuramente piano piano questo fenomeno si sta riconoscendo. Peccato, perché in passato si parlava di biodiversità solo quando c'era qualcosa, una razza in estinzione o una specie in estinzione, quindi oggi se ne comincia a parlare, diciamo, con maggiore interesse. Ma io diciamo che il vino, i vitigni, è un fenomeno molto importante che viene racluso in questa sfera. E ha con me un professore che da anni si è occupato di questo argomento. Buongiorno al professor Attilio Scienza. Buongiorno Davide, buongiorno. Professore, la prima cosa che gli chiedo, io so che lei anni fa ha fatto una lunghissima ricerca per verificare quanti vitigni autoctoni aveva il nostro paese. Io vorrei che in prima battuta lei ci facesse una distinzione, se esiste, tra biodiversità e vitigni autoctoni. Direi i vitigni autoctoni rappresentano un aspetto, una faccia della biodiversità, la biodiversità antropica, perché chi mi ha preceduto, e ho sentito le ultime sue battute, noi avevamo una visione della biodiversità limitata ai fenomeni naturali, a qualcosa che si era evoluto nel tempo, no? Frutto di questa evoluzione naturale, come affermava Darwin. Mendel ha introdotto qualcosa di molto più interessante, perché ha introdotto il concetto di genetica, e la genetica è in effetti, secondo Darwin, l'evoluzione nelle mani dell'uomo. Quindi la biodiversità dei vitigni è una diversità antropica, è una diversità che l'uomo ha prodotto nel corso del lunghissimo processo di domesticazione delle specie vegetali e animali, però operando praticamente quasi solamente su fenomeni naturali, cioè i vitigni che si sono formati nel corso delle migliaia di anni sono in gran parte o espressione di accumulo di mutazioni o fenomeni di incrocio naturale, spontaneo, sul quale poi con la cultura, con le sue esigenze, con l'interazione con l'ambiente che ha manifestato i diversi vitigni, l'uomo ha operato una selezione. È chiaro che a questo punto il tempo gioca a sfavore della biodiversità, gioca a sfavore perché il passaggio dalle forme di agricoltura diciamo così, per la sussistenza, per la sopravvivenza delle persone, ad una agricoltura che produce per vendere, per trasformare, per vendere, fa sì che la gran parte delle espressioni naturali o comunque frutto di selezioni del passato venga messa da una parte e si concentri solo su pochi vitigni che danno dei risultati di quantità e di qualità più interessanti e più rivolti al mercato. Perché se noi pensiamo ai 350 vitigni nazionali che abbiamo nel catalogo delle varietà, quindi che si possono coltivare, vicino a questi ce ne sono sicuramente un altro migliaio di vitigni che sono nelle collezioni, sono direi in questi luoghi dove non possono manifestarsi, sono solo conservati, sono solo protetti, ma probabilmente rappresentano una delle più grandi risorse per il futuro, non tanto e non solo per diversificare la produzione, ma anche perché nascondono dei geni che sono responsabili della tolleranza della vite alle malattie. Questo è il futuro, direi, di maggiore interesse. Non è più un discorso quindi di qualità differenziata, avere vitigni che fanno più antociani o meno antociani, più tannini o più aromi, ma stiamo scoprendo in questo germoplasma antico, dimenticato e negletto, messo da una parte, delle varietà che sono capaci di resistere ai funghi, alla peronospora e all'oidio. Questa è la grande ricchezza in questo momento. Rimanga con noi, professore, che devo passare la linea alla regia, torneremo fra poco. 800 24 00 24, chi vuole intervenire? Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci a parlare di biodiversità in agricoltura. Bene, direi che vorrei sentire, ora abbiamo in linea con noi Emilio Bulfon, che è un produttore di vini molto particolari, friulano, che da anni lui si è dedicato proprio a riproporre sul mercato delle piccole quantità di vini, ma diciamo se vogliamo, di vitigni completamente dimenticati. Buongiorno Bulfon. Sì, buongiorno. Senta, ci vuole dire, dica i nomi dei vitigni che lei produce, così, dei vitigni da cui trae il suo vino, così facciamo sorpresa sul nostro pubblico, perché credo che veramente la maggior parte, il 99,9% non li conoscono. Sì, sono vitigni che si coltivavano solo nel nostro territorio e si chiamano Piccoli Neri, che è a bacca nera, praticamente è un refosco come il Terrano. Lo Chialin è una uva scavolina, il Forgiarin, l'Ucelut, il Cividin, la Cianoria e la Cordenossa, tutte varietà autoctone del territorio. Quindi sono tutti, diciamo, nomi dialettali in realtà, questi? Sì, nomi però trascritti come varietà, praticamente come vitigno, ecco, esiste l'uva di vitigno, ecco, meno conosciuti dello Schioppettino, Pignolo, Tazzelenca, il Picolit, che sono praticamente, si producono nel territorio praticamente del Collio, ecco, nei Colli Orientali, ecco. Professor Scienza, quanti ce ne sono in Italia di vitigni che possono essere riprodotti e così destare una grande sorpresa nel pubblico? Ah, sono moltissimi, devo dire che non passa quasi giorno che non se ne scopra uno di nuovi. È veramente un fenomeno, come si dice, assolutamente ancora misterioso, è una miniera da esplorare nel sud. Noi ne possiamo coltivare, direi, circa 350, che sono iscritte nel catalogo delle varietà e quindi sono coltivabili all'interno delle varie province, delle varie regioni, ma ce ne sono un altro migliaio che sono conosciuti, sono di cui si conosce, direi così, la produttività, la qualità anche dell'uva e anche in molti il tipo di vino che possono produrre, e ce ne sono ancora molti, ma sono nelle collezioni questi, e poi ce ne sono ancora molti che stanno per essere scoperti, e continuamente abbiamo in università la visita di molti viticoltori che continuano a chiedere: venite nel nostro vigneto, venite da noi, noi abbiamo vitigni strani, curiosi, e si va in questi vigneti e veramente si trova ancora una grande ricchezza tutta da scoprire. Questa è una caratteristica tipicamente italiana, non ci sono altri paesi né in Europa, tantomeno nel mondo, che hanno tanti vicini come noi, neppure la Francia, neppure il Portogallo, che è forse dopo di noi il vitigno che ha una maggiore ricchezza genetica. E questo direi è una caratteristica proprio antropologica, sociologica del nostro paese, che è stato sempre una via di passaggio da Oriente verso Occidente, in cui tutte le popolazioni hanno portato a qualche cosa, ma non solo, è un fenomeno culturale, non è un fenomeno genetico il vitigno autoctono, è un fenomeno culturale, cioè la curiosità e la voglia della scoperta, la voglia di anche forse di questo individualismo che ha l'italiano, no? Di avere qualcosa di suo, di particolare, da non condividere, e questo ha creato una grande ricchezza. Grazie professor Attilio Scienza, la ringrazio del suo intervento. Bene, volevo tornare dal professor Corti. Professor Corti, abbiamo sentito di questo enorme patrimonio italiano, diciamo, che riguarda i vitigni, ma è così anche sul, diciamo, razze animali. Abbiamo un grandissimo patrimonio noi in Italia. Sì, i numeri ovviamente sono diversi, qui si parla di decine di razze autoctone, però io vorrei sottolineare che nel sistema di produzione pastorale e quello zootecnico tradizionale l'elemento di biodiversità non è dato solo dalla razza animale. Quando noi abbiamo un sistema di produzione di un formaggio, passiamo a un prodotto di cui possiamo parlare facendo condividere quello che diciamo, quando noi pensiamo a un formaggio non c'è solo una razza particolare con delle sue caratteristiche di proteine del latte magari diverse dalle razze cosmopolite, ma in un sistema di produzione pastorale c'è tutta la biodiversità vegetale e microbica, quindi l'animale che pascola, se il pascolo è gestito in modo tradizionale, mantiene associazioni vegetali con decine, se non centinaia, di specie di essenze autoctone. E poi nelle cantine, prima che arrivassero l'uso dei disinfettanti in quantità industriali e certe prescrizioni igienistiche, nelle cantine di stagionatura dei formaggi si è creato un patrimonio di biodiversità, di lieviti, muffe, batteri, che è una ricchezza inestimabile. Che l'Unione Europea con la legge 93-43 ci voleva distruggere. E diciamo che in parte, per molte produzioni, la variante artigianale che prevede attrezzi tradizionali, luoghi di maturazione del formaggio tradizionali, per molti formaggi questa ricchezza è già stata distrutta. Fortunatamente abbiamo degli esempi, io cito il Bitto Storico perché mi ci occupo molto, dove questo insieme, il pascolo, il sistema tradizionale di lavorazione del latte senza aggiunta di fermenti selezionati, la razza, questo insieme che si tiene insieme, che ha la sua coerenza legata da una cultura forte, lì si è mantenuto. Sentiamo Franco da Reggio Calabria, un radioascoltatore. Buongiorno Franco. Sì, buongiorno, mi dica. No, mi dica lei, scusi, ha telefonato. Allora, lo dico subito. Allora, dica. Io sono di Reggio Calabria, dove ancora parliamo la lingua greca, sia a Reggio sia nella sua provincia. Qui si coltiva il vitigno del cosiddetto vino greco di Calabria, che è un vino dolce da dessert. C'è un rapporto certamente tra questa persistenza linguistica dall'VIII secolo avanti Cristo fino ad oggi con questo vitigno. Bene. Chiamato vino o vite greca di Calabria. Bene, grazie della sua testimonianza Franco. 800 24 00 24, 349 238 66 per gli sms. Abbiamo con noi il professor Donato Lanati. Donato Lanati, buongiorno. Buongiorno, ciao Davide e buona domenica a tutti gli ascoltatori. Grazie, io ti ho chiamato perché tu ormai tra la Georgia, il Kazakistan, insomma vaghi per tutti i paesi stranieri, e penso che lì di biodiversità ce ne sia magari minore che in Italia, ma c'è anche là la biodiversità in viticoltura. Ma certo, guarda, nel Caucaso, in Mesopotamia, nell'Anatolia è nata la viticoltura 8500 anni fa, però in Georgia, che è la patria praticamente della vite, vantano oggi 500 varietà differenti. Noi ne abbiamo quasi 2000, quindi dobbiamo sentirci estremamente ricchi di questo aspetto. Poi il nostro paese, che sembra un ponte proiettato nel centro del Mediterraneo, quindi ha delle differenze geografiche, climatiche e anche gradienti di latitudine, ha favorito in centinaia di anni una selezione dei diversi vitigni che sono arrivati nella nostra penisola e collocare ognuno di loro in posti in cui potessero raggiungere anche l'eccellenza. E oggi questi aspetti si danno veramente la grande unicità e autenticità in un mercato internazionale, ci permettono di non cadere nell'omologazione. Ovviamente se pensiamo alle nostre isole tirreniche, agli Appennini, alle Alpi marittime e nel più specifico a tutte le posizioni delle Langhe o dell'Etna, questo ci fa pensare quanta ricchezza noi abbiamo con la nostra biodiversità, che è la vera forza di un mercato enologico. Volevo chiedere, rimani con noi, a Emilio Bulfon. Senta Bulfon, ma con questi vigneti lei, cioè con questi nomi di questi vini e queste etichette, lei si è presentato sul mercato un po' di anni fa, ma il pubblico, ecco, come reagisce di fronte a questi nomi strani? Cioè chiede il suo vino, lei ha fatto diffusione di questi vitigni così, diciamo, anomali rispetto al panorama anche friulano. Non sembra vero, ma noi esportiamo in tutto il mondo, quindi esportiamo nel Colorado, nell'Illinois, in Giappone, in Canada, un po' dappertutto. Abbiamo anche dovuto chiudere un po' la richiesta perché rimanevano senza vino i clienti fatti da 30 anni fa. Quindi a me interessa portare sul territorio la gente, far conoscere il nostro territorio, che è molto bello, quindi non scoprono solo Bulfon, ma scoprono un allevamento caprino che fa dei formaggi stupendi, la pitina, il formaggio salato, tutte queste belle cose. Con di più siamo tra San Daniele e Spilimbergo, San Daniele c'è il prosciutto, Spilimbergo c'è la scuola di mosaico, poi abbiamo i vivai di Rausedo che sono i maggiori produttori di barbatelle, poi abbiamo i coltellinai di Maniago, quindi è un territorio da scoprire che praticamente dà soddisfazione al produttore quando tu vedi un cliente che viene da Sardegna, dalla Sicilia, del Piemonte e dalla Toscana per conoscere queste varietà, e questo è molto importante. Ecco. Bene, anche culturalmente sono d'accordo con lei, grazie a Emilio Bulfon. Sentiamo Massimiliano da Torino, un radioascoltatore, buongiorno Massimiliano. Sì, grazie. Io volevo chiedere una cosa molto semplice, se sono state considerate biodiversità anche le razze animali selezionate dalla cultura, no, millenaria dell'agricoltura e la zootecnia, non c'è un rischio che prima o poi possa essere considerata biodiversità anche la manipolazione genetica, cioè gli OGM considerati e magari fatti passare culturalmente come biodiversità, visto che autoctonia e biodiversità sono due concetti diversi da un certo punto di vista? Sì, bene, abbiamo cercato infatti di definirli all'inizio e guardi, abbiamo con noi un grande esperto di zootecnia, quindi il professor Corti. Prego Corti. Evidentemente il concetto di biodiversità è stato legato allo sfruttamento da parte dell'uomo di mutazioni naturali. Quando parliamo di razze, parliamo di forme di selezione che l'uomo ha attuato prendendo spunto da diversità, quell'osservazione attenta e curiosa di cui si parlava prima anche a proposito delle varietà vegetali c'è stata anche nel mondo animale. L'uomo ha osservato animali all'interno di popolazioni indifferenziate che presentavano caratteri particolarmente interessanti e li ha fatti oggetto di una selezione particolare. Quindi si parla comunque di un processo naturale in cui non c'è stata nessuna forma di manipolazione. Si può poi discutere se alcune varietà di vegetali che sono state ottenute con forme di irraggiamento con radiazioni siano, diciamo che comunque anche quelle però erano mutazioni sollecitate da un trattamento particolare, ma comunque mutazioni che avvenivano in modo spontaneo. Quindi direi che invece il discorso della ingegneria genetica rappresenta qualcosa di totalmente diverso. andiamo al di fuori di quello che è una modifica che si forma naturalmente, che l'uomo con intelligenza sfrutta. Bene, grazie professor Corti, linea alla regia, prego Donato Lanatti di rimanere con noi, torneremo fra poco. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo, biodiversità, termine che ho detto che non è nato 100 anni fa, ma è nato molto recentemente, secondo così la storia del 1988. Ma sentiamo Paolo dalla provincia di Milano, buongiorno Paolo. Sì, buongiorno. Ascolti, io quando ero ragazzino mia madre faceva dei dolci fantastici impregnati in un bellissimo vino dolce che si chiamava Marsala all'uovo. Io è da anni che lo sto cercando e non lo trovo più. Qualcuno mi sa dare una risposta se è stato tolto per qualche motivo, il motivo di questa diversità che è stata eliminata? A me piaceva da pazzi. Molto di più di qualunque altro liquore dolce che c'è in commercio. Donato, ma secondo te se non si trova più il Marsala all'uovo? Marsala all'uovo non era un vino ma un vermouth, perché veniva aggiunto, ma i suoi vini, il Marsala si ritrova, le varietà che entrano a produrlo sono Grillo, Catarrato, Insoglia, e ci sono coltivati singolarmente per fare dei grandi Marsala. Un tempo il mercato richiedeva questi tipi di vini che oggi hanno decisamente meno interesse, però potrebbe aggiungere al Marsala un po' di uovo il radioascoltatore e rifarselo. Ovviamente il mercato ha bocciato questi vini, ecco. Bene, ricordo 800 24 00 24, 349 238 6666. Ma torno sempre dalla Nati, perché qui ho ricevuto 2-3 sms che vorrei tornare sull'argomento dei vitigni. La differenza tra un vitigno che viene considerato biodiverso e i vitigni autoctoni. Guarda, autoctono vuol dire che è di quel luogo, che è indigeno e che non si è mai spostato. In realtà tutti questi vitigni arrivavano dalla Mesopotamia, sono stati portati qui dai Greci attraverso la Magna Grecia, nell'Italia settentrionale attraverso il mare Adriatico e la via del Po per arrivare, e poi anche in Inghilterra Giulio Cesare ha portato questi viti in Francia, e così si è diffusa la viticoltura. Ovviamente questi vitigni hanno, grazie all'azione della civiltà contadina, hanno trovato dei luoghi in cui servivano per sbarcare il lunario. Noi abbiamo tanti vitigni diversi e autoctoni, se mi permetti, o tradizionalmente coltivati da molto tempo, quindi possiamo considerarli in parte autoctoni anche se non li sono. E praticamente questa civiltà contadina per sbarcare il lunario ha trovato in centinaia di anni la posizione più adatta per avere l'eccellenza di quella varietà. Immaginati il Nebbiolo se fosse coltivato in Emilia Romagna. Il Nebbiolo ha delle diverse sfumature di qualità nelle Langhe, ma è completamente diverso da quello che si può ottenere nel Nord Piemonte. E così lo stesso il Nerello Mascalese sull'Etna rispetto se fosse coltivato in altre regioni. Per esempio, una delle regioni che è più ricca oggi di varietà tradizionalmente coltivate da molto tempo, che potrebbero avere molta importanza sul mercato, è la Calabria, perché troviamo vitigni come il Mantonico, come il Castiglione, uno importantissimo che sarà sul mercato tra un po', che sarà il Toccarino, oltre ad altri vitigni come il Meliocco, ecco. Quindi biodiversità. Bisogna anche distinguere che questi vitigni sono legati a un ecosistema particolare, dove c'è un'interazione tra vitigno e ambiente con l'aspetto fisico e microclimatico importantissimo, e questa è la differenza che l'Italia ha rispetto agli altri paesi del mondo. Ultimamente sono stato in Cile e l'Università di Santiago diventavano pazze per poter definire un loro vitigno autoctono, ma non ce l'hanno, perché la loro viticoltura è decisamente più recente della nostra. Quindi noi dobbiamo puntare veramente su questi vitigni che sono stati negli ultimi anni messi un pochettino da parte perché il mercato aveva qualche moda enologica, aveva premiato l'utilizzo di varietà un po' più internazionali. Oggi invece vediamo che c'è un notevole recupero di questa nostra biodiversità legata a un territorio specifico che si dà autenticità e visibilità sul mercato internazionale. Bene, ti ringrazio Donato Lanatti. Ora sentiamo Marta da Firenze, una radioascoltatrice. Buongiorno Marta. Buongiorno. Sì, Senta, io volevo parlare degli OGM perché mi ricordo di aver studiato che in natura, la natura ha praticato anche questa operazione dell'OGM con i virus che trasportavano qualche spezzone di RNA che in qualche modo modificava la funzione della pianta. Se questa funzione era valida, la natura la accettava e la faceva progredire. Se era sciocca o inutile, al solito la natura la cassava. Quindi io mi irrito sempre quando sento urlare all'OGM. L'OGM, se uno riesce a fare una pianta che è resistente, che so io, a un oidio, a un parassita, o che non ha bisogno di un fertilizzante perché riesce a prendere l'azoto direttamente dall'aria senza bisogno che gli si debba dare come fertilizzante, ben venga, sarà una riduzione di inquinamento. Certo, se si riesce, si cerca di fare l'uomo carota, una cosa idiota, stupida, mi sembra, non so, ecco, questa è la mia opinione, questo volevo dire. Professore, professor Corti, che l'OGM lo vedo anche da tantissimi SMS, è un argomento di quelli sempre caldi, di attualità, caldi, sì. Ovviamente. Beh, io faccio una considerazione molto semplice, OGM e biodiversità. Sul modo come in natura avvengano le mutazioni possiamo discutere per ore e rischiamo anche di andare sul filosofico, però c'è una considerazione molto pratica che interessa fare. Sia nel mondo animale che nel mondo vegetale, gli OGM implicano grossi investimenti da parte di grosse imprese e quindi vanno a creare delle forme di brevetto che impongono nell'ambito dell'agricoltura una semplificazione dei sistemi di coltivazione, impongono l'eliminazione di forme tradizionali di coltivazione e allevamento e quindi portano in un modo o nell'altro a una drastica riduzione della biodiversità. Bene, su questo si può, cioè sugli OGM veramente bisognerebbe fare una trasmissione, ma che durasse non so quante ore, perché ci sarebbe molto, molto da dire anche su questo, diciamo, ultimo respinta da parte, mi sembra, del Consiglio di Stato di poter permettere la sperimentazione. Su questo sicuramente si potrebbe anche qui discutere per ore e ore. Ma continuiamo a parlare di biodiversità con Alberto Olivucci, che è presidente della Civiltà Contadina, che sono custodi di semi di ortaggi e di legumi. Dottor Olivucci, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Ecco, ormai questa parola custodi interviene abbastanza appunto in agricoltura. Ci vuole spiegare cosa sono i custodi di semi, in questo caso di ortaggi e di legumi, ma in altre case sono di frutta, verdure ed altro ancora? Sì, è un impegno personale dovuto alla ormai scomparsa totale di questi semi dal commercio. Si tratta di varietà spesso non più rintracciabili perché erano varietà ampiamente coltivate sul territorio da agricoltori, da ortisti anche non professionali. Purtroppo non sono entrati nel sistema commerciale o sono stati eliminati dal sistema commerciale. Le leggi di oggi purtroppo consentono la circolazione solo a sementi che sono registrate, iscritte su dei registri non solo nazionali ma anche europei. Tutto questo ha escluso la gran parte della biodiversità coltivata, che era espressione di una cultura contadina, ma espressione anche di territori, perché ogni territorio con il loro microclima, con la loro anche visione culturale, hanno forgiato delle vere e proprie opere d'arte. Noi italiani, grazie probabilmente al nostro territorio, grazie probabilmente alla nostra fantasia, anche in campo agricolo abbiamo espresso quella che oggi chiamiamo biodiversità, ma di fatto è la grande capacità della natura e dell'uomo di forgiare cose nuove. Non sempre ci fa qualche esempio? Ma voglio dire, ad esempio, uno degli alimenti per noi italiani più banali, lo zucchino, eppure siamo stati noi italiani forgiatori di questo ortaggio. Prima di tutto siamo quelli che abbiamo la maggior quantità di varietà. Cosa c'è di particolare? Semplicemente che noi siamo riusciti a togliere quel principio amaro che è contenuto naturalmente nella cucurbita Pepo, e che lo rende chiaramente indigesto e tossico. Noi siamo riusciti a ottenere una gran quantità di varietà di zucchine, tutte dolci, tutte diciamo nutrizionalmente elevate come sapore, come sapidità, e siamo riusciti a diffonderle anche in qualche modo su tutto il pianeta, perché dovunque andiamo e noi diciamo, non so, che vogliamo un piatto di zucchini, ci capiscono, perché ormai è entrato nella lingua internazionale. Sentiamo, rimanga con noi Piero da Milano. Buongiorno Piero. Buongiorno, io sono ricercatore in ambito biologico, biotecnologico, e non ho purtroppo seguito tutta la trasmissione perché appunto mi hanno solo avvisato da poco. Bene. Voglio dire una cosa, cioè io sono totalmente a favore di mantenere la biodiversità, tutta la ricchezza di varietà coltivate delle varie specie. Cioè, un paio di scaffali nello sgabuzzino tutti pieni di semi che mia moglie mi vuole sempre far buttare via, perché mi piace anche proprio il coltivare, ma non si confonda questo desiderio, diciamo è cosa giusta di preservare questo tipo di semi vecchi o di varietà che vanno perse, con l'agricoltura per sfamare il nostro paese, per sfamare il mondo. Cioè c'è tutto uno sviluppo di varietà che viene fatto nell'ambito pubblico e privato, che è cruciale per mantenere alte rese, e che altrimenti non è la stessa cosa che preservare qualche varietà per avere una forma speciale, un colore speciale di una zucchina piuttosto che di altre cose. Non so se è chiaro il concetto. Certo. Cioè, c'è tutta una serie, uno sforzo grandissimo delle banche della biodiversità per mantenere la biodiversità agraria, quella delle piante coltivate, ma questo non vuol dire che noi dobbiamo continuare a coltivare varietà di 50-100 anni fa o per esempio rinunciare agli ibridi. Gli ibridi di mais hanno permesso di aumentare 5 volte la produzione rispetto a prima. Dovremmo avere una superficie 5 volte tanta per avere la stessa produzione. Sì, certo, diciamo che stiamo trattando una parte di questo tema, che abbiamo detto la biodiversità o i vitigni autoctoni o d'altro. Il tema che lei propone sicuramente è un altro completamente diverso, che va inserito sicuramente nel discorso che facciamo oggi, però oggi abbiamo puntato su questo, cioè di vedere appunto la grande diversità che ora poi vedremo anche sulle razze animali. Quindi sicuramente grazie del suo intervento per aver riportato a una globalità dei temi che stiamo trattando. Alberto Liucci, rimanga con noi, e passo la linea alla regia, torneremo fra poco. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Volevo tornare a Olivucci. Olivucci, abbiamo parlato dello zucchino, ma potremmo parlare a lungo del pomodoro. Sì, infatti abbiamo delle varietà in Italia che sono splendide e sono dovute proprio a un incontro con le varietà in qualche modo arrivate dalle Americhe, che ancora erano in qualche modo selvatiche, ma noi siamo riusciti a sviluppare, grazie sempre quindi al nostro clima, all'abilità della civiltà contadina italiana, tutta una serie di varietà infinite che hanno saputo cogliere il meglio del sapore e anche delle resistenze che potevano avere questa specie. Diciamo che la varietà oggi più consumata, ciliegino, datterino, arriva da Israele e non è nostra, insomma non si può definire autoctono. Purtroppo abbiamo avuto questa grossa perdita, ma è dovuta purtroppo a un cambiamento epocale. Non è solo la varietà che è cambiata, sono proprio i sistemi di coltivazione, e sono quelli che hanno avuto esigenze diverse rispetto a anche solo 50 anni fa. Ho capito. Oggi abbiamo l'esigenza di coltivare in serra, di coltivare fuori stagione, di rendere i prodotti in qualche modo mercificabili, quindi insensibili, non so, al trasporto, alla frigoconservazione. Tutte caratteristiche che non erano richieste un tempo, dalle varietà, certo, antiche, un certo. Tempo. Bene, grazie a Alberto Olivucci, presidente Civiltà Contadina. Ora abbiamo con noi Daniele Bigi, presidente RARE. RARE vuol dire Associazione Italiana Razze Autoctone a Rischio di Estinzione, nonché ricercatore in genetica degli animali domestici presso la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell'Università di Bologna. Buongiorno Bigi. Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Senta, abbiamo qui con noi anche un altro esperto, il professor Corti, quindi in fatto di razze animali potremmo parlare a iosa. Quanto è grande il patrimonio genetico italiano, appunto, che riguarda le razze animali? Intanto ne approfitto per salutare il professor Corti, che è un amico e che è stato anche uno dei fondatori di questa associazione, quindi lo conosco molto bene. Allora, in Italia abbiamo un patrimonio veramente notevole di razze animali, sono almeno 250 se le contiamo tutte le razze delle diverse specie domestiche che sono allevate nel nostro paese. Un patrimonio che abbiamo rischiato però di perdere, non dimentichiamocelo, nella seconda metà del secolo scorso, con l'avvento dell'industrializzazione in agricoltura e l'arrivo di razze molto produttive dall'estero, c'è stato in buona misura un abbandono di queste razze e diverse sono state perse, ecco, quindi questo dato dobbiamo ricordare. Beh, stavamo perdendo anche la chianina, se non erro, che ora è tornata in grande auge. Sì, esatto, stavamo perdendo tante razze importanti che negli ultimi anni alcune di queste hanno trovato una nuova valorizzazione per fortuna, e da queste si ricavano prodotti apprezzati in tutto il mondo anche. Mi sembra che ultimamente ci sia anche un recupero della podolica, che è un'altra razza meridionale che sta tornando fuori, vedo anche nella ristorazione. Sì, la podolica è una razza molto rustica che sa adattarsi ad ambienti estremamente difficili dove le razze più produttive non potrebbero vivere, ed è diventata importante sia per la produzione di carne di qualità che anche di formaggi tradizionali, ecco, quindi è una razza che ha trovato di nuovo un interesse sul mercato. È importante parlare di interesse sul mercato perché queste razze non devono essere mantenute come animali da giardini zoologici. Beh, ma devono invece trovare una finalità produttiva precisa che permetta agli allevatori di allevare secondo gli schemi che prevede l'allevamento zootecnico, che anche alla ricerca di un profitto, della possibilità di mantenere l'attività agricola. Grazie Bigi. Sentiamo l'ultimo radioascoltatore, poi ci stiamo avviando in fondo. Alberto da Modena, buongiorno Alberto, breve. Buongiorno. Io penso, riguardo al tema, io penso che l'agricoltura va divisa in due settori, o commerciale o tradizionale, che ci teniamo quello che abbiamo, benvenuto sia, e anche il commerciale. Se facciamo un discorso di non andiamo da nessuna parte, cioè ci teniamo a quello che abbiamo e lo coltiviamo come si deve, o se no facciamo anche l'altro che va a uso industriale. Bene, grazie, così abbiamo trovato l'equilibrio con questo ultimo intervento. C'è un sms lunghissimo di Ulisse, quello che lei ha scritto lo dovrebbe scrivere al direttore di Radio 24, non a me, non posso leggerlo quello che lei ha scritto, la ringrazio comunque. Ma volevo tornare dal professor Corti, e so che tu stai scrivendo un libro proprio su questo argomento. Sì, è un libro che uscirà tra pochi giorni, riguarda la biodiversità, ma vista soprattutto nella sua connessione con le dinamiche locali, sociali, antropologiche. Si parla di cibo e identità locale, pubblicato dal Centro Studi Valimagna, si potrà richiedere via internet. Sono sei realtà molto particolari, legate tutte a un prodotto autoctono che ha generato delle forme di orgoglio locale, che ha creato delle reti, che ha stimolato piccole esperienze virtuose. Si passa dal mais spinato di Gandino, che è... Gandino è un luogo? Gandino è un luogo in media valseriana, un centro famoso in passato per la produzione della lana, tutt'oggi c'è la sede di una famosa multinazionale tessile, ma da qualche anno c'è stata questa incredibile rinascita di interesse per i mais antichi, in seguito al ritrovamento in una cantina di una spiga che dopo decenni, molto fortunosamente, quei cariossi di quei semi sono germinati, e da qui si è ricreata una che è forse della varietà che forse è una delle più antiche dell'Italia settentrionale. Fammi un ultimo esempio, perché so che si parla anche di un formaggio particolare, siccome ho poco tempo a disposizione. Beh, l'altro formaggio particolarissimo è il Bito Storico, che è un campione di biodiversità, anche perché è stato quello che ha salvato la capra arabica. A differenza del DOP generale, il Bito Storico, volendo attenersi a una eredità storico, culturale, ambientale, ha detto: veniva fatto anche con latte di capra, bene, dobbiamo continuare a usare questo latte di capra, ma non a una capra sane, neocamosciata, che sono quelle che vanno per la maggiore nel mondo, no, la nostra razza che si è adattata alle Alpi aerobiche, la capra aerobica, magari produce molto meno, però è una capra che si adatta molto meglio ovviamente al sistema di pascolo su quelle aspre montagne dei nostri monti, e quindi grazie a un prodotto si è mantenuta vitale una razza. Lo dico velocemente io, poi parli anche del grano saraceno, se non erro, sì. quindi anche il grano saraceno, comunque la Valtellina dimostra di essere proprio un enclave della biodiversità. Beh, un po' diciamo come tutte le zone alpine nel senso vero, cioè ambienti difficili dove alcuni prodotti hanno trovato le loro nicchie, non a caso la maggior parte di quelle razze in Italia di cui si parlava, ma anche in Europa, sono razze di montagna, nelle pianure grande circolazione, apertura ai commerci e quindi perdita di patrimonio. Parliamo di questo grano saraceno della Valtellina perché è un esempio interessante di come è anche difficile mantenere. È l'unica varietà italiana di grano saraceno. Il grano saraceno arriva nel 1500 nelle Alpi. Ti devo interrompere perché stiamo chiudendo. Abbiamo sentito già il nostro regista che ha messo la musica per dirmi piantala. Filippo Auregi mi ha dato questo avviso, che lo ringrazio. Ringrazio Anita Panizza e Lorenzo Nespoli in redazione. Vi do appuntamento a domenica, stessa ora, stessa radio, e l'argomento ovviamente sarà diverso. Buona domenica a tutti.